In che modo questi quattro gradi sono concatenati gli uni agli altri? Questi gradi sono talmente collegati fra di loro e si rendono talmente un servizio scambievole che i primi poco o nulla giovano senza i secondi e i successivi senza i primi non si possono raggiungere mai. A che giova infatti occupare il tempo in una continua lettura, scorrere le geste e gli scritti dei santi se non ne traiamo il succo, masticando e ruminando queste cose, e se, inghiottendole, non le facciamo entrare fino alla parte più intima del cuore, al fine di considerare diligentemente, alla loro luce, il nostro stato e di compiere le opere di coloro dei quali desideriamo leggere spesso le azioni? Ma come rifletteremo su tutto questo e come potremo guardarci dal sorpassare i limiti posti dai santi padri meditando cose false o vane se non saremo istruiti in antecedenza dalla lettura o dalla viva voce? L'istruzione a viva voce fa parte in certo modo della lettura, per cui siamo soliti dire non solo di aver letto quei libri che abbiamo letto per noi stessi o per altri, ma anche quelli che abbiamo appresi dalla viva voce dei maestri. Inoltre, che giova all'uomo vedere per mezzo della meditazione le cose che si devono compiere se non è messo in grado di compierle con l'aiuto della preghiera e con la grazia di Dio? Infatti, ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della Luce, senza del quale non possiamo fare nulla, poiché è Lui che opera in noi, non però senza di noi. Siamo infatti cooperatori di Dio, come dice l'Apostolo. Dio vuole che lo preghiamo, vuole che apriamo il seno della nostra volontà alla grazia, che viene e che bussa alla porta e vuole che gli diamo il nostro consenso. Questo consenso domandava il Signore alla Samaritana quando diceva «Va a chiamare tuo marito», come se dicesse «Ti voglio infondere la grazia e tu applica il libero arbitrio». E le chiedeva pure la preghiera «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «Dammi da bere», tu stessa gliene avresti chiesto e gli avresti ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Dopo aver udito ciò dal Signore, come l'avrebbe potuto intendere da una lettura, la donna così istruita meditò nel suo cuore che sarebbe stata per lei cosa buona e utile avere quest'acqua. Perciò, accesa dal desiderio di averla, si rivolse alla preghiera dicendo «Signore, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete». Ecco che l'ascolto della parola del Signore e la meditazione che ne seguita l'avevano incitata a pregare. Avrebbe forse potuto essere così sollecita nel chiedere se prima non l'avesse infiammata la meditazione? E a che cosa le sarebbe valsa la meditazione se con successiva preghiera non avesse richiesto ciò che le era apparso desiderabile nella precedente meditazione? Perciò, affinché dunque la meditazione sia fruttuosa, è necessario che segua una fervida preghiera, di cui si può considerare quasi un effetto la dolcezza della contemplazione.